Radio Warpa. First of all, I should ask you your name. Maya. Jan. I'm Din. Sorry? Din. In. Din. Din. Okay. And what's the name of your project you're bringing in Zona Warpa? We're bringing a project called Bonita. It's an alternative controller game made with Unity and Arduino Nano and two potentiometers and the Barbie's hands. Okay. And the story is basically that you are drunk Barbie in this version Bonita, but you're going back from a night out partying and you're trying to find your way home. Okay, and from e come capita nelle migliori dirette, adesso io devo abbassare il volume, devo uscire fuori da questo tunnel mentale in cui mi sono andato a cacciare dove non funziona nulla. E questa è la puntata del 22 giugno 2025 di Radio Warpa, ovvero Rigonia a Zona Warpa. Quello che sto cercando di farvi ascoltare abbastanza disperatamente sono gli audio che ho raccolto in queste due giornate. La prima che cercherò di farvi ascoltare, fosse l'ultima cosa che faccio, è l'intervista a un trio di ragazze che stanno lavorando a un progetto di ricerca e che hanno inventato un gioco che si chiama Bonita, e che in buona sostanza è il gioco di una ragazza che deve tornare a casa dopo una serata di bagordi, una ragazza sbronza per strada, e sostanzialmente lo scopo del gioco è resistere il più a lungo possibile. E una cosa molto curiosa di questo gioco è che il controller, cioè il joypad con cui in teoria dovresti giocare a questo gioco, in realtà è una bambola, cioè nel senso è una bambola è una bambola Barbie, e in quanto tale ha le braccia, e in realtà è un busto alto quasi quanto il computer, una bambola più grande delle Barbie che siamo abituati ad avere, e controlli questo busto, controlli le braccia di questo busto e fai muovere a destra e a sinistra questa ragazza ubriaca che deve tornare a casa. Detto questo, siccome è un contributo a cui tengo molto e che vorrei proprio farvi ascoltare, adesso faccio una cosa molto pratica, cioè vi mando un pezzo e cerco di capire come farvi sentire questo audio. Quindi musica, e torniamo in diretta tra poco. Thank you. Radio Warpa. Torniamo in onda in diretta su da Zona Warpa, 22 giugno 2025, questa è Radio Warpa, e combattiamo contro la tecnologia che come al solito ci mette il bastone tra le ruote, ma noi teniamo duro e cerchiamo di venire a capo di questo problema tecnico legato alle interviste. Nel frattempo però io ci terrei a fare una cosa che non ho fatto ieri, una cosa come dire un po' ingenua, nel senso che la guida del bravo conduttore radiofonico in qualche maniera ti direbbe che è cosa buona e giusta, raccontare quello che succede nella giornata di oggi e approfittando anche del fatto che appunto in questa puntata sono da solo e sto lasciando i ragazzi divertirsi in giro per il centro sociale occupato autonomo Gabrio che ospita questo festival, posso un po' fare ordine mentale delle cose e raccontarvi cosa succede e dove si svolge. Allora, innanzitutto l'evento si svolge su due piani. Il centro sociale Gabrio ha un ingresso che appunto fa d'accoglienza al pubblico, che se vuole può decidere di donare all'ingresso un contributo che fa anche un pochettino da finanziamento per quanto riguarda l'organizzazione del festival. E alla sinistra dell'ingresso in fondo c'è la sala dei talk. Per esempio adesso che sono le 16:10 posso dirvi che dovrebbero essere sul palco nessuno ah, forse Matteo Bini più Zughi, che stanno ancora facendo il loro compendio di videogiochi liberi, ma dovrebbero essere in chiusura, mentre alle 16:15 c'è Cosmo Esposito che parlerà di decolonizzare il gioco. A seguire alle 17:30 ci saranno Mattia Della Sega e Simone Barbieri che parlano di Six Day in Fallujah, la fiaba dell'eroe americano, e poi alle 18:45 avremo Luca Parri che parla di videogiochi e rave culture. Noi, la nostra diretta andrà in onda da qui fino a quando non vi faccio ascoltare tutto quello che voglio farvi ascoltare, orientativamente attorno alle 17, poi alle 18 in teoria avrò qui ospite con noi Fabio Kenobit, che è uno dei membri fondatori, come dicevo appunto, di Radio Warpa. Allora, abbiamo ripristinato le nostre interviste, quindi a Dio piacendo stavolta funzioneranno. Mando un jingle e poi vediamo se questa volta ci faranno il favore di funzionare bene. Radio Warpa. First of all, I should ask you your name. Maya. Jan. I'm Din. Sorry? Din. In. Is it Din? Okay. And what's the name of your project you're bringing in Zona Warpa? We're bringing a project called Bonita. It's an alternative controller game made with Unity and Arduino Nano and two potentiometers and the Barbie's hands. Okay. And the story is basically that you are a drunk Barbie in this version Bonita, but you're going back from a night out partying and you're trying to find your way home. Okay, and from where did you get the idea of this thing kind of experiment? Yeah, so like we had a project in school where they took us to like a flea market, and then we were supposed to pick up like anything that we can like rig into a controller. Yeah. And we saw this super cute Barbie along the junk, so we got her. Actually, so it's a way a little bigger than a standard Barbie. It's a bust. It's a bust. Yeah, it's a whole bust of the Barbie with the rotating hands. Okay. So we had to like. Rig the elbows, yeah, and then that's what we use as a controller because it rotates. Okay. So you can control the Barbie, the drunk Barbie, with the doll itself. I peeked a little bit while you were putting up all the hardware, and it looked like a sort of a racing game. Am I wrong? There is a road. It's an Endless Runner. Like, it's not with cars. So think of Subway Surfers, but you're not like avoiding trains. You're avoiding people that are also coming back from a party. And so, what's this, the purpose of the game? To show that you, as a game developer, shouldn't take yourself too seriously. No, okay. I mean, where does the game end? It's like when you bump into someone. When you bump into someone. Okay, so you have like an high score. The longer you last without bumping into someone, then that's a high score. And can I ask you one more question? Where are you from? I'm from Croatia. Okay. I'm from the Philippines. But you live here in Italy, or you're coming from abroad? Not in Italy. We're kind of in a mobility program. Okay. So we're just based in Belgium. Okay. But we are moving to Finland soon. Yes. After the summer. Yeah. The program is called Replay. Replay. Okay. Yeah. And how did you get to know Zona Warpa? My boyfriend is from here. Okay. So I also moved kind of partially here while I study, but he is very well connected with these people, and okay. he has been to an event in Milan before. Ah, so okay, yes. We thought that it's a perfect place to plug our very unserious game in. Yeah, definitely. So and it's very nice, it's very particular, it's very different from this. So, girls, thank you very much for your time, and I'm very happy to discover your project. Yeah, good luck with it. Okay, thank you so much. So, thank you. Alberto, piacere Alberto, io sono Francesco di Radio Antidoto, la divisa così mi faccio riconoscere. E cosa presenti a Radio in realtà il programma lo chiameremo Radio Warp, okay. Però vabbè, questo la schiamo Radio Warp. La mia tesi di laurea, un pezzo della mia tesi di laurea, sono studente di filosofia. Qui a Torino? Qua a Torino. Ok. E come tesi di laurea porto un videogioco filosofico, o almeno questa è l'idea. Ok. Poi, se funziona o meno, sono qua anche per capire se la cosa funziona, insomma. E niente, ho conosciuto verso settembre un ricercatore maltese, si chiama Stefano Gualeni, un ricercatore dell'università, che fa proprio queste cose qui, nel senso che utilizza i opere ludiche, videogiochi fatti da lui per comunicare dei messaggi in qualche modo, per spiegare qualcosa. Devo spiegarti un concetto complicato, c'ha il giochino che fa giocare. Okay. E ho detto, io faccio studio game design qua a Torino e filosofia, quindi ho fatto, sarebbe proprio carino provarci. Non li studi nello stesso posto? No, non li studi nello stesso posto. Ok, quindi tu fai l'università di Torino, filosofia. Sì, e con una scuola diversa invece. Puoi dire nome e cognomi, siamo una radio piratissima. Sì, va bene. E quindi niente, oggi sono qua per farlo provare un pochino, adesso che in uno stato fattibile in cui si può provare, insomma, e, per vedere se il mio obiettivo... E di cosa parla il tuo gioco? Allora, sostanzialmente l'idea è quella di simulare la vita di uno studente universitario che vive in collegio. Noi possiamo vivere 5 sue giornate stando nella sua stanza. Di base l'idea è che la UI simula un'applicazione di gamification, quindi la lista delle cose che devi fare, che fai sul telefono, della lista delle cose da fare, no? Quindi il giocatore inizia a giocare e cerca di completare tutte le task, no? Hai un tempo limite per farlo, man mano che avanti nei giorni le task iniziano ad aumentare, il tempo a diminuire, inizia a fare tante cose sempre in maniera più veloce, disconnettendoti sempre più tra... possiamo anche vederlo così in qualche modo. L'idea è quella che man mano che si va avanti si va a talmente alta velocità che ci si discosta da quello che si sta facendo, vero? E non ci si pensa più, si apre proprio, si va proprio automatico. Ma non trovo avanti nei giorni, incontro delle task molto strane, come prendi la stampante e butta dalla finestra, prendi il pacco di pasta e metti nella doccia. E io volevo proprio vedere se, ma questa gente lo fa o quindi non lo fa? È anche un simulatore di sbrocco studentesco, no? Quando comunque hai tutte le scadenze varie, tutte le varie preoccupazioni, e iniziano a farti un po' evidentemente delle non delle ho mai messo la pasta nella doccia, però come no, neanche io, però, mood, però ci siamo abbastanza intesi. Esattamente, io volevo vedere se la gente lo faceva davvero, questa cosa che non lo faresti normalmente. E, tramite un processo iterativo di, il gioco si propone di farsi rigiocare con dei piccoli inti diversi, si passa dal devo completare tutto, devo fare tutto al 100% perché se no perdo vita, devo fare tutto al massimo, al quell'azione non la farei, è molto strana questa azione, non facciamola, fino a io posso fare anche azioni che non sono presenti in elenco di cosa fare, perché non ci avevo pensato all'inizio, boh, perché ero preso nel fare le cose e il rapporto che hai con il tempo cambia completamente, perché all'inizio è un devo fare tutto in fretta, dopo è un che palle, devo aspettare la prossima giornata, non ho più niente da fare, perché quelle cose non le voglio fare, sto esplorando la stanza con calma e quindi cambio completamente l'approccio. Questa sarebbe l'idea, insomma. Interessante. E senti, quanto dura il gioco? Quanto dura il gioco? Dipende, di per sé una run singola saranno un quarto d'ora, 10 minuti, però io ho proprio giocato tanto. Fino a quanti giorni puoi giocare? Sono durano 5 giorni. 3 minuti e mezzo, cioè, meno, però. C'è un risultato finale? Molto interessante, ma è questo processo, nel senso che hai pensato anche per perché avevo poche risorse, ho voluto giocare tanto sull'iteratività, sul fatto di rigiocarlo, appunto la stessa esperienza, però da un punto di vista diverso cambia completamente. In questo modo uno ha un po' più di minuti di gioco, insomma. La fine è proprio, io volevo mettere il focus su questo shift che avviene durante il playthrough, nel senso che il cambiamento di approccio che hai rispetto agli elementi del gioco in base a semplicemente il gioco che ti fa ma perché hai messo la pasta là? Puoi non farlo, quindi non niente, quindi sostanzialmente è un gioco che ti dovrebbe un po' far pensare, cioè nel senso, siccome nei videogiochi molto spesso ricevi delle indicazioni e tendi a seguirle anche un po' pensequamente, esattamente, cioè, sì, è una cosa che mi interessava, ti fermi e dici aspetta perché che diciamo che ho cercato di lavorare su più livelli possibile, così che magari puoi finire la vita, però è la vita dell'avatar dell'applicazione di gamification, quindi non succede niente se finisci la vita, anche quello voleva essere un elemento di oddio perdo vita, ma non questa è niente, la tua prima edizione di Zanavata. Sto lavorando, sono conoscente di questa cosa molto random, anche tu come quasi tutti, tanto pare che è una cosa buona, no, è fantastico, è stranissimo. Niente, se funziona o meno lo scopriamo pian piano. Va bene, allora, visto che io sono lì, sbircerò e domani magari ti chiederò. Va bene, ok, benissimo. Veramente grazie, bellissimo. Dio, uar, pa. We'll be right back. Va bene, allora proviamo in italiano molto lentamente. Ok. Ti posso chiedere il tuo nome? Io sono Bruno Martinez. Ok. Y estoy haciendo esto con Nicole. Hola. Ciao Nicole, piacere. Ciao. Io sono Francesco. Francesco. Piacere. Allora, Francesco. Siete qui a Zona Warpa per presentare il vostro progetto. Il nostro progetto, sì. Postal Games. E cosa, di cosa parla? Che cos'è? Me parece e va a ser, it will be better if I go in English. But you've been so good. Yes, it's kind of Spanish. But I can ask you the question in Italian, you can answer yes. in Spanish. Okay, you want. Yes, yes. That I understand. Actually, I can ask you the question in English and you can answer me in Spanish. Because it's nice to have some. And then, you know, then ask me in Italian and I will answer in Spanish. Okay. Quindi, parlami del tuo progetto in spagnolo. Bien. Nuestro proyecto, Postal Games, es una game jam okay. que viaja por toda ahora, por toda Europa. Okay. Es una jam que se basa en cartas okay. escritas okay. a mano. Okay. Lo que se dice en español, puño y letra. Oh, puño y letra. Debs de Argentina y de Varso, en Polonia, de Varsovia. Y de okay. Milán. Y de Milán escribieron cartas. Okay. Nosotros las sellamos con cera. Okay. Stamp. Okay. Las sellamos con cera. No sabemos qué dice. No sabemos qué dice. Okay. Secreto. Son secretas, privadas, no las leemos. No. Confiamos en quienes escriben la carta. Mm-hmm. So, let me summarize it in English. Okay. So, you're collecting letters. Yes. Everywhere you're going. Yes. And you're putting into envelopes. We put them and you're sealing them. Yes. And with you don't know what's written inside. No. And developers, then? Developers only, desarrolladores de juegos, de Kyoko. Okay. En todo, son los que escriben la carta. Only the developers. Sí. Dirigida okay. a un developer anónimo. Ah, ok. No tiene remitente, no saben a dónde va. Ok. Entonces, cuando un nuevo desarrollador escribe y sella, le damos una carta de otro desarrollador anterior. Ah, puede ser de estos países donde ya escribieron Argentina, Warsaw y Milán. Okay. Cuando abre el contenido de la carta, personal, anécdota, historia, historia de vida, cultural. Joke. Una broma, una... joke. Sí, un joke. La tiene que usar como un theme para hacer un Gioco, para hacer un juego. Ah. En dos días, ¿eh? Una, ¿cómo es? Semana, en una semana, máximo. Ok. So let me rephrase it. So just to see allora. If my Spanish is sì. good enough. So these are postcards. Sì. You make them write to developers. You do like a book crossing but with letters. So a developer comes here, writes his own postcard, you seal it and you give him back the yes. postcard from another developer or editor. A postcard and a letter. Okay. A postcard and a letter. Oh. The letter can be with a personal content, anecdote, okay. joke or whatever. Yeah. The postcard is a personal dedicatory. Okay. A personal with contact info if they want. And after you, after he gets the postcard and the letter, he has a week to answer to you, I guess. They will open the letter. We have a registry there, like okay. a week. They have a week to make a game. We have a Discord or some way to come. What do you mean by making a game? A jamming, game jam. Ah, okay. To make a small game between 48 hours and a week. And how many game you collected so far? So far, we started this. We made what? ¿Cuándo hicimos la de Warsaw? No more than 2 or 3 weeks. We have the first game, okay. and we have 3 in development. We have 4 people that open letters. Okay. And where are you going to go next? Now you're now in Torino. Sí, ahora Torino, después vamos a Barcelona, después a Londres. Londres. Y después vamos a Suecia. Sweden. And where are you from? We are from Argentina. Argentina. Uh-huh. And what are you doing here? Come ci siete arrivati qui? Siete studenti universitari o è una vostra iniziativa personale? Nosotros somos desarrolladores. Nosotros hacemos juegos. Okay. Y hacemos eventos, hacemos un festival en Argentina, el Festival Independiente de Juegos Argentino, y hacemos muchas actividades de comunidad. Nos gusta mucho ir a comunidades, a conocer gente. Like this one. Como esta, sí. Así que empezamos, cuando nos empezamos a pensar un viaje más personal, y dijimos, hagamos algo que tenga que ver con Yoko, con juegos. Okay. Pensamos esto de las postcards, pensamos esto de ir llevando algo a todos los lugares a los que íbamos, y lo que era un viaje a Barcelona y ida y vuelta se convirtió en un viaje por toda Europa de 3 meses y medio. Okay. Llevando y trayendo. So, it's your personal journey. You're having a vacation, just to say. Yes, like this is kind of a vacation holiday when you work as an autonomous indie developer. You work as you take holidays all the time. Okay, yeah. Being our own bosses and employees, our vacation is also. Like, I don't know how they call it in English. In Italian, you say nomadi digitali. Sì, nomadi digitali. Sì. Okay. Digital nomad. So you go wherever you want to go, and you we work. We have a schedule. We have a website. It's called postalgames.info. Okay. Where you have a schedule of the days we have left. And where are we going to host the Postal Games? And we will be finishing around August. And I guess you're meeting a lot of people. So far, yes. Many. And are you having fun? Yes, obviously. It's a very interesting experiment, yeah, social experiment. It's a very cute idea. People get really weird writing letters. Yeah. They haven't written letters since they were children. They get nervous, stamping. So there's a lot of things going on. They get really nervous thinking what to write. Okay. Because it has presión, tenés expectativas, expectations. Yeah. I guess they also kind of excited, you know. Yes, we have a video, so we're taking pictures and stuff. Pictures and interviewing and so on. So we might get a video later. And after 3.5 months, you're going to go back to Argentina and make a sum up of all the take things. All the cars and make the biggest jam we can with all the letters around the world, so we connect people, and those people, the people that write the letters and open it, they get connected. Okay. And they can be friends. Ah, so you know, back the people. We link yeah, people. Nice, very nice. And from which area, which city of Argentina are you coming from? We're based in Buenos Aires. I am from Buenos Aires. Okay. And I'm from Tierra del Fuego. From the southmost. The south? Yes, the southmost Patagonia. Okay, Patagonia. From Rio Grande. It's very, very, very famous place. Yes, yes. There's two cities. One is the famous, and the other is when I live. Rio Grande. How is it like life in Patagonia? Real life? Because, you know, you only know about holidays, you know, in Patagonia, because it's famous. How is it cleaning? It's harsh. It can be very boring sometimes because there's no many big population concentration and so on. But I don't know, it's strange, and as a strange things, many creative people get out of there. Because when you get bored, you become creative. Yes, when you have limits and you have a reference, it is a bummer because you don't have where to grab, but it is something good because you don't have who will grab it. And you want to meet new people all the time. No. You usually do. It's very open-minded people. Okay. It's not traditional. It's a very new society. It's something that hasn't existed for a long time. From the Patagonia, I'm very used to travel. Yeah, I guess. That's why postals and this travel is kinda easy. Guys, thank you so much for your time. I get you back to your game. And good luck and have fun. Thanks to you, and we hope if you wanna join. Yeah. I don't know. I'm not a developer. Grazie ancora. Va bene, allora proviamo in italiano molto lentamente. Allora, ti pausa. Oddio, ti ho fatto parlare per niente. Allora, Manuel, ciao. Ricominciamo da capo. Allora, scusami tanto. Siamo qui davanti al tuo oggetto, sì? Che abbiamo detto si chiama Rub Sitting, che non so perché eravamo convinti ci fosse scritto Life Simulation ieri, non ho idea chi se l'è inventato, ma funzionava benissimo comunque. E come mi spiegavi, è una slot machine costruita da te. Sì. E se vuoi ridirmi quella piccola introduzione sulla parola Rub. Certo. Allora, Rub è la radice comune di parole slave che hanno a che fare con il mondo del lavoro, quindi parole come rabota, robota, i robot discendono da questa radice. E noi abbiamo un Super Mario nello schermo che è un po' il nostro robot, diciamo. Esatto, e Super Mario è un po', diciamo, questa figura del lavoratore, no? Mario è un idraulico e siamo abituati a vederlo superare dei livelli. Esatto, fa una gran fatica. Esatto, deve schivare gli avversari, saltarci sopra, prendere le monetine e entro un certo tempo, mentre in questo caso diciamo che si ritrova in una situazione diversa. Un po' al contrario, no? Cioè, diversa, ok. È sospeso nel vuoto, c'è una classica cassa. Insomma, il toncino. Esatto. E allo spettatore spetta decidere cosa fare vuoto. Esatto. E abbiamo scoperto che sostanzialmente, giocando, ci siamo resi conto che lui non si deve muovere. Quella è una questione aperta. Sì. Aspetta, perché lo sfondo si muove. Tra l'altro, io questa monetina qua non l'avevo mai vista. E ogni tanto appaiono delle monetine. Però ecco, lo scopo del gioco è aperto. Tocca allo spettatore, al giocatore. Tu hai le freccine con cui muovi il tuo omino a destra e a sinistra. Questa cosa che non mi ricordo più che cos'è. Questo è il tasto di spin del salto. Ok. Ah, ok, gli manca un pezzo. Gli ho messo quello di scorta, diciamo. Ok. E poi c'è la leva della slot machine che gli fa fare un salto poderoso. Tra l'altro non abbiamo mai provato a fare questa cosa qua. No, ho sbagliato. Perché lui si butta di sotto e muore. Praticamente ti fa fare un doppio salto. Il doppio salto ti fa scivolare dalla cassa. Questo non l'avevamo visto, la descrizione. Questa è la descrizione. Perché devi sapere che questo oggetto ha rapito l'attenzione di molti, perché è un oggetto veramente strano. Cioè è appeso, c'è questa musichetta, c'è Super Mario che tutti conosciamo. Tutti approcciano giocando come se fosse Super Mario, ma in realtà non funziona così. Cioè, appena salta casca e muore. Appena si avvicina a qualcuno, muore. Appena si muove a destra e a sinistra, muore. Poi sparisce il bottoncino, poi arriva quel proiettilone e muore. E quindi in effetti io non avevo, cioè, convinto che fosse Life Simulation, dicevo beh, perfetto, cioè, sì, non devi, diciamo, fare che niente. Anche è un po' esatto. È anche un po' quello, però è veramente molto molto interessante, devo dirti. Appunto, è l'oggetto più mistico qua dentro, nel senso, vedo proprio la gente essere attratta da questa cosa in maniera anche misteriosa, no? Ma tu anche perché l'hai mollato qui e non ti ho mai visto. Sì, mi piace lasciarla lì e lasciarla interagire. Ma tu l'hai già portata in altri posti? Sì, allora siamo stati a Milano, a Tokyo. Sempre per Zona Warpa, anche in altre anche occasioni. Per altre occasioni, all'Hack Meeting di Brescia l'anno scorso, e poi a presentazione di un editoriale di Genealogia del Futuro a Milano. Okay. E diversi spazi. Ho capito. Diciamo. E tu di cosa ti occupi, se posso? Io mi occupo, cioè, porto avanti la mia ricerca artistica, ho un background, allora ho fatto scultura a Brera, però è una scultura dove c'è sia la parte, diciamo, più tradizionale legata al modellato, allo scolpire, eccetera, ma è solo una parte, puoi decidere di approfondire di più o di meno in base ai tuoi interessi, perché poi ti occupi sia di video, di performance, e nell'ultimo periodo ho iniziato a dedicarmi e a interessarmi alle questioni legate all'etica hacker. Ok, certo. Che è un pezzo importantissimo di Zona Warpa. Esatto, attraverso, cioè, negli ultimi anni di studi stavo approfondendo questioni legate all'Hack Meeting, cioè appunto a questa condivisione dei saperi. E studiando queste cose sono venuto a conoscenza di Hack Meeting, e da lì di tutto il resto. In realtà anche di Zona Warp, immagino, sì, perché sì. Zona Warp ho scoperto che tutti ci finiscono per caso, me compreso tra l'altro, e quasi non ci si ricorda più come ci si è finiti. Sì, è una cosa molto bella. È un po' un casino. E tu da dove vieni? Io sono di Brescia, Lomezzane in realtà. Adesso aspettavo provincia. Perché ho e che è una zona montana, super industrializzata, certo, metallurgica, certo. E anche questo è un pezzo del presente in un'azienda, era un pezzo la manopola della sì, slot, la manopola, poi questo è stato aggiunto, sì, e anche questo però la sbarra, per il pezzo di ferro macchinario industriale, esatto. Manuel, grazie mille di avermi dedicato il tempo, non ci speravo, grazie, di incontrarti, perché veramente, cioè, hai lasciato questo fantasma qui, c'era, cioè, gente rapita, cioè, e volevo esplorare, volevo, grazie, farmi spiegare, grazie, da qualcuno, che questo però lo nascondiamo perché è più bello così. Grazie mille, grazie, e buon proseguimento. Grazie, ciao. Mille. Ciao, ciao. Allora, lasciami in sottofondo questo che è una specie di mix di brani, di sottofondi che risalgono alla prima versione di Civilization, il famoso gioco strategico di creazione di culture e civiltà. E torniamo in diretta, prendiamoci un attimo. Io ho fatto ascoltare, oddio, nell'ordine adesso non me lo ricordo più, però appunto alle ragazze di Bonita, vi avevo fatto ascoltare il Postal Games dei ragazzi dell'Argentina. Poi cos'altro abbiamo ascoltato? Abbiamo ascoltato, beh, il fantastico Rub Setting di Manuel, e l'esperimento filosofico dello studente di filosofia dell'Università di Torino. C'è ancora qualcosina da farvi ascoltare, qualcosa anche di molto interessante, ma prendiamo fiato, visto che abbiamo ancora qualche minuto da passare assieme in questa diretta del 22 giugno 2025 a Zona Warpa. Questa è Radio Warpa, ovvero Rigoni a Zona Warpa su Radio Antidoto. Ricordo brevemente il programma della giornata. A quest'ora, in questo momento, mentre vi sto parlando, nella zona di espositore, nella zona talk, c'è Cosmo Esposito che parla di Decolonizziamo il gioco, alle 17.30, poi ci saranno Mattia Della Sega e Simone Barbieri che parleranno di Six Days in Fallujah, ovvero la fiaba dell'eroe americano, e poi alle 18.45 Luca Parri ci parlerà di videogiochi e Rave Culture. Naturalmente nel frattempo c'è lo spazio esotitivo che è ancora vivo qui alla mia destra. Io sono nella stanza della mensa dove stanno lavorando per la preparazione della cena, e poi durante la serata alle 20.30 è prevista una serata musicale. Dunque io proseguo col farvi ascoltare appunto le testimonianze degli espositori, delle persone che sono qui nel corridoio a fianco a me e che un poco alla volta ho raccolto, partendo da un'iniziativa molto particolare che si chiama Null Signal Games. Ra Dio War Pa. Ha inventato quello che ha inventato Magic, però adesso lo facciamo noi. Volete parlare? Sì. Allora, sì. Lo smazzi tu? Ma io mi prendo, posso prendere questo sto dentro, lo spiegate. Se vuoi. No, è un audio. Okay, okay, okay. Quindi, un giocatore gioca un mazzo che rappresenta la mega corporazione, e un giocatore gioca un mazzo che rappresenta l'hacker che cerca di rompere i piani della mega corporazione. Okay. Allora, il gioco funziona così: la corporazione ha delle carte nel suo mazzo che si chiamano agende. Queste hanno un requirement e dei punti, valgono dei punti. La corporazione vuole mettere giù le sue agende e completarle e mettere nella sua score area, mentre il runner vuole andare a vedere le carte della corp e rubare queste agende. Okay. Queste agende valgono punti, che valgono uguali per il runner e per la corp. Il primo che arriva a 7 punti vince. Quindi devo rubare il gioco. Ma posso farti come vi è venuto in mente di venire qui a Zona Warp a presentare questo gioco? Cioè, qual è il... l'ispirazione, allora, diciamo. Ma allora Zona Warp la conoscevo da anni, non c'ero mai stata. Ok. Perché le volte che avevamo fatto Milano non è riuscito ad andare. Okay. No, i mazzi sono ordinati per lo teniamo su secondo, diventa di scarlo. Mi piace troppo vedere la gente che ci gioca. Ok. Allora, no, devo, allora, noi conoscevamo mazzo Zona Warp, lei c'era già andata in realtà. Sì. E questo gioco qua è un gioco che prima era fatto da un'aziendona, mm-hmm. adesso lo facciamo in un gruppo di 100-120 volontari, okay. sparsi per il mondo. Sì, perché è quella che ha creato Magic, dicevano. Cioè è la stessa. All'inizio ha creato quella che ha creato Magic, poi qualcun altro l'ha ripreso, okay. poi hanno chiuso hanno mollato. Loro, e quindi l'abbiamo presa noi. E secondo me, ne abbiamo parlato anche un po' con Kenobit, perché ha fatto una talk su questa cosa, okay. qua. La maniera in cui ci siamo posti nel fare questa cosa, okay. dire non abbiamo la proprietà intellettuale di questa cosa, mm-hmm. ma comunque possiamo farlo lo stesso, okay. secondo me si allineava molto con il tipo di cosa che c'è la Zona Warp. Certo. Poi non so, cioè per me è stato un mistero quanto la gente sarebbe stata ricettiva, perché magari la gente viene qui per giocare ai videogiochi, certo, no? Certo. Uno si aspetta di stare lì 10 minuti, certo. a fare il platformer, chissà, magari qualcuno non interessa venire a giocare a giochi, okay. di carte. Però in realtà c'è gente che è venuta, gli è piaciuto molto, abbiamo avuto qualche contatto, quindi sono rimasto molto contento. E siete in 120 in Italia, Torino? No, tutto il mondo. In tutto il mondo solo 120 persone giocano a questo gioco, cioè nel no, senso no. Ok. C'è migliaia di persone che ci giocano, okay. 100 persone lo fanno, ok. Ah, 120 persone che come dire lavorano ci a elaborare, che sia arricchire. Game design, narrativa, okay. che si occupa di illustrazioni, gente che organizza tornei, ok. Ed è diventato una specie come dire di movimento, metti tutte le virgolette del caso, sì. pirata, nel senso nessuno ci giocava più, nessuno se ne occupava più, abbiamo deciso, a noi piaceva, abbiamo deciso, sì. di prenderci ancora. Sì, in realtà l'abbiamo preso il giorno dopo. Allora, avete aspettato che accadesse? Nel senso, eravamo contenti di giocarci finché okay. c'erano questi qui che lo facevano. Il giorno che hanno detto non lo facciamo più, ho detto okay. ok, va bene, preso, okay. lo facciamo noi. Scusami. Io non c'ero iniziato, sto usando la prima persona plurale, però sono sì, esatto, perché sei parte di, come si chiama? Null Signal Games. Null Signal. Null Signal, ok. Così magari poi vi cerco anche online, vi taggo quando sì, mandi sì, non dall'intervista. Signal.games. Ok, ok. E tu sei? Anonimo. Anonimo, benissimo, caro Anonimo. Allora io ti lascio tornare a Netrun. Sì, come sta reagendo il pubblico? la gente che viene a giocarlo, sì. Ma in realtà sta piacendo molto. Non tantissimi si fermano, perché okay. secondo me la gente capisce che questo qua è un gioco di carte, devo stare mezz'ora, 40 okay. minuti. Però quelli che si fermano a giocare tendenzialmente okay. ci chiedono ma dove si trova, posso venire a giocare. Okay. Adesso noi abbiamo un po', cioè ho proprio ripreso la spiegazione generale del gioco, no? Sì, sono sì. due che si affrontano, c'è la Corporation contro l'Hacker, se non sbaglio, sì, giusto? Sì. E qual è il punto di forza di questo gioco? Cioè perché è particolare rispetto agli altri? Cioè perché ti piace così tanto, per esempio? Allora, rispetto ad altri giochi di carte, sì, non facciamo generale. Il suo ambito. Esatto. Altri giochi di carte è un gioco che ti permette un'espressività e sì. una creatività molto molto alte. Ah, sì. Se tu hai giocato ad altri giochi di carte saprai che a volte pesti una mano e dici ah, vabbè, si fa niente con questa okay. e chiudi. Questo è un gioco che cioè questo prima che lo prendessimo noi sì. era già il mio gioco preferito. Ok. Quindi okay. poi ci sì. lavorare io al gioco che era il mio gioco preferito, ovviamente è bellissimo. Ecco, è un sogno. Perché è molto profondo e ti permette okay. di fare un po' quello che vuoi. Ok. E poi per me adesso un vantaggio è la modalità di distribuzione, nel senso che le carte sono gratis, nel senso okay. puoi comprarle, le certo. facciamo, le vendiamo, ok, possiamo comprare, però puoi andare, c'è anche una distribuzione, diciamo, cioè, ci sono i PDF gratis, esatto, tutte le stampe, chiaro. E poi per me è una cosa anche la community, perché okay. la community è la community di questo gioco è la community più queer che io abbia mai trovato. Ok, interessantissimo. E soprattutto quella internazionale, quindi per me è stato un grande vantaggio andare in giro. Allora ti ringrazio ancora per il tempo che mi hai dedicato e buon divertimento. Dove pubblicano questa cosa? È su radioantidoto.org. Ok, allora, quello che è scritto lì o all'ingresso o dentro. Okay. Poi vi taggo quando nella puntata in cui vi ho intervistato. Come si taggi? Come nulla. Sì. Ok? Grazie mille, ciao. E questa era una versione, l'avete riconosciuta, una versione orchestrale del famoso tema di Tetris. Bene, io direi che siamo in chiusura, 51 minuti di trasmissione, vi ho fatto sentire praticamente tutto il materiale che ho raccolto, me ne tengo ancora uno un po' più lungo per la prossima puntata e ne raccolgo ancora un paio, perché bisogna comunque ragionare in termini, diciamo così, strategici. Comunque, quello che avete ascoltato è in buona sostanza l'anima di questo evento, dove ci sono ragazzi di ogni età, di ogni posto del mondo, progetti dei più disparati, giochi di carte, videogames, videogames sperimentali, videogames indipendenti, videogames classici, insomma, tutto quello che può essere gioco, però declinato in una maniera che, come ci raccontava ieri Matteo, è una maniera che possiamo considerare come caotica, contestataria e profondamente indipendente. Quindi, per ricordarvi un pochettino gli appuntamenti che ho già ripetuto prima del Tetris, però ve li ripeto di nuovo perché così faccio anche un po' di lavoro istituzionale e poi chi riascolterà naturalmente potrà rintracciare un pochettino la storia dell'evento. Exposed, diciamo, a cose fatte. Questo pomeriggio c'è stato un tavolo di modellazione 3D a cura di Francesco Alessandrini, poi ha portato Matteo Lupetti, che noi abbiamo conosciuto ieri pomeriggio e di cui aveva accennato, insomma, un altro laboratorio che si chiama Come creare storie interattive con Twine. Dopodiché abbiamo avuto, anzi sempre alle 3, scusatemi, Matteo Bini e Zughi, che hanno parlato del compendio di videogiochi liberi, quindi un elenco di videogiochi liberi. Io ho ficcato la testa dentro, stavano parlando di un gioco di scacchi che conoscevo, l'Ichess, che credo abbia a che fare con Linux. Sappiamo che Matteo è interessato al software libero, quindi è probabile che sia così. Alle 16.15 ha parlato Cosmo Esposito, sta parlando ancora Cosmo Esposito riguardo alla decolonizzazione del gioco. Alle 17.30 parleranno Mattia Della Sega e Simone Barbieri, Six Days in Fallujah, la fiaba dell'eroe americano. Alle 18.45 Luca Parri, videogiochi e rave culture. E poi alle 20.30 ci sarà della musica, l'open jack, come si chiama, cioè chiunque voglia gemmare in 8 bit. Questo è, come dire, uno spunto di Kenobi che speriamo di avere su questi microfoni nella diretta delle 18, andrò a dargli la caccia più tardi. Bene, sono le 16.56, quindi direi che il tempo è maturo per salutarci. Spero che comunque abbiate, come dire, siete riusciti a costruire un quadro di questo evento, di questa situazione che è Zona Warp, che è appunto uno spazio così particolare e creativo. Noi torniamo alle 18 con la diretta, ma vi lascio con le repliche di ieri, così per chi non ha avuto modo di ascoltare può scoprire, insomma, quello di cui abbiamo parlato. Naturalmente quando parte la diretta le trancerò di brutto, come ho fatto con quella precedente, però adesso faccio partire la seconda puntata, così giochiamo ad alternanza, no? La prima puntata, la terza puntata, la seconda puntata, la quarta puntata. Bene, io sono Francesco, questa è stata Radio Warp, ovvero Rigonia, zona Rigonia, Radio Antidoto a Zona Warp. Un buon proseguimento e un buon divertimento qui col gioco e un buon ascolto con la radio. Ciao. Arrivederci su Radio Warpa.